Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Nell'ultimo anno sono scesi i redditi e la capacità di spesa delle famiglie, dice l'Istat. Berlusconi, entro l'anno la riforma del fisco. E al rientro a Roma il premier affronta anche il nodo giustizia, al via un vertice a Palazzo Grazioli. Rosarno, finiti gli sgomberi, oggi in piazza i cittadini, le associazioni di agricoltori, tolti i riflettori, tutto tornerà come prima. La Juventus e Ferrara sotto processo dopo la sconfitta con il Milan, protagonista di una parabola opposta. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. In apertura del giornale radio parliamo dei redditi degli italiani che, secondo i dati diffusi dall'Istat, sono in un calo piuttosto netto insieme alla loro capacità di spesa. Parleremo anche di politica, perché di riforma fiscale ha parlato il Presidente del Consiglio, che sta intervenendo in questi minuti su vari argomenti. Ma dunque iniziamo dai redditi e ci colleghiamo con il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Ancora effetti negativi dunque della crisi economica. Ad essere colpite sono le famiglie. Il loro potere d'acquisto, infatti, secondo l'Istat, è diminuito dell'1,6% nel periodo che va da ottobre 2008 a settembre 2009. Logica conseguenza di questo dato è stata la flessione anche dei consumi e degli investimenti delle famiglie, che sono tornate però nel contempo a risparmiare più 0,4%. I dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica sono però contestati dalle associazioni dei consumatori. Le diverse sigle parlano di una contrazione del potere d'acquisto più sostenuta e vicina al 2%. Simone. Sì, Vincenzo, invece sul fronte della riforma fiscale c'è da registrare un intervento del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Sì, è così. Il Premier si è augurato che l'intervento possa essere portato a termine nel 2010. Penso che si possa fare quest'anno, soprattutto se ci sarà la volontà di tutte le parti, ha spiegato il Presidente del Consiglio, che si è detto in piena sintonia con questo con Tremonti. Ricordiamo che nelle intenzioni di Palazzo Chigi vi è l'obiettivo di cambiare volto al sistema della tassazione IRPEF, riducendo a due le aliquote. A non credere però nel progetto di Berlusconi e il Partito Democratico, che accusa l'esecutivo di essere protagonista di una storia infinita di promesse. L'Italia dei Valori, con Donadi, chiede a sua volta una riforma equa. Sentiamo Donadi. Abbiamo detto che di fronte a una riforma equa saremo disponibili al confronto. Due aliquote, delle quali una va a colpire il 99% degli italiani, però non sono eque. Significherebbe un'unica tassa per tutti, per i poveracci e per i ricchi, e a giovarsene ancora una volta, e come sempre, sarebbero soltanto i ricchi. Queste le parole di Donadi, Italia dei Valori, e da Roma è tutto. E grazie Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. Noi in realtà restiamo a Roma, perché sul tema del fisco è intervenuto il segretario della CGIL, Guglielmo Epifani. Tra l'altro dovrebbe iniziare tra poco una conferenza stampa che sta seguendo per noi Savino Gallo. Savino. Sì, buongiorno dalla sede nazionale della CGIL, dove è appena cominciata la conferenza stampa di Guglielmo Epifani sui fatti di Rosarno. Il segretario si è detto preoccupato per i gravi fatti di violenza, aggiungendo che non è accettabile la decisione di spostare centinaia di immigrati, molti dei quali regolari, nel centro di identificazione ed espulsione di Crotone. Con ogni probabilità Epifani annuncerà qualche iniziativa a favore degli immigrati, ma intanto questa mattina ha parlato anche della riforma fiscale rilanciata da Berlusconi. È una mossa propagandistica, ha commentato il segretario generale, fatta apposta per rimandare decisioni che andrebbero prese subito. Epifani si è poi detto contrario alle due aliquote. La prima, quella del 23%, è troppo alta e andrebbe portata al 20%, la seconda invece è troppo bassa e dal 38% dovrebbe passare al 36%, perché se rimanessero così, ha concluso il segretario, si garantirebbero grandi risparmi per i redditi alti, ma si farebbe molto poco per chi invece ha entrate ridotte. E da Roma è tutto. Grazie Savino Gallo per questi aggiornamenti. Abbiamo sentito che il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha parlato di fisco, ma sta parlando in questi minuti anche di molti altri argomenti, mentre si deve svolgere intorno all'ora di pranzo un vertice nel quale si parlerà prevalentemente di giustizia all'interno del Popolo della Libertà. E dunque ci colleghiamo in diretta con Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Sì, si indigna a parlare di leggi ad personam, ma almeno così dice il premier Silvio Berlusconi, non voglio più parlare di queste cose, sono leggi ad libertatem, dobbiamo pensare a fare le riforme. Ma intanto il presidente della Camera Gianfranco Fini convoca un prevertice con i suoi a Montecitorio proprio per parlare di giustizia con Giulia Bongiorno, Ignazio La Russa, Italo Bocchino e il senatore Giuseppe Valentino, redattore del disegno di legge sul processo breve. Al termine però Italo Bocchino scherza e dice che si è parlato di vacanze, ma intanto gli ex DN si preparano al vertice previsto a Palazzo Grazioli con il premier e il guardasigilli Angelino Alfano. E Bocchino precisa, le riforme devono essere condivise, altrimenti falliscono. Da parte dell'opposizione intanto il democratico Vannino Chiti ribadisce, deve esserci convergenza, ma se si va avanti solo con leggi che servono al Presidente del Consiglio, noi non ci staremo. Questa sera intanto Berlusconi ha annunciato un incontro con il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano. E per il momento qui da Roma è tutto, per studio. E grazie anche ad Elisabetta Fiorito. Nel frattempo oggi 9.000 avvocati aderenti all'Unione delle Camere Penali scioperano contro il disegno di legge sul processo breve che arriva domani in aula al Senato, le mancate riforme strutturali per il settore. Sentiamo Renato Borzone, vicepresidente dei penalisti, al microfono di Maria Luisa Pezzali. Questo provvedimento del processo breve, per come è formulato oggi, poi vedremo se sarà modificato, non lo condividiamo affatto. Rappresenta insomma quello che noi abbiamo chiamato il frutto avvelenato dei rapporti tra politica e magistratura. È una scorciatoia inammissibile perché ferma il processo riformatore, separazione delle carriere tra chi accusa e chi giudica, riforma del Consiglio Superiore della Magistratura e dell'azione penale, che è in realtà la via maestra per risolvere i problemi della giustizia. Non ci piace perché in realtà contiene delle limitazioni incostituzionali. Il diritto alla ragionevole durata del processo è un diritto di tutti gli imputati. Configurarlo come un privilegio solo per alcuni imputati è assolutamente in violazione della Carta Costituzionale. Ma di più, questo provvedimento non si occupa di una delle dei momenti processuali che sono quelli che rallentano di più, cioè quello delle indagini preliminari. A 10 anni dalla morte, avvenuta il 19 gennaio del 2000, ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, anche a Radio 24, fa ancora discutere la figura di Bettino Craxi. Questa mattina abbiamo sentito due voci all'interno della trasmissione 9 in punto, condotta da Oscar Giannino. La prima è quella di Achille Occhetto, ex segretario del PDS. In Craxi io ho visto elementi di luce e di ombra. L'elemento di luce è stata la prima fase, purtroppo molto breve, quando ha tentato di uscire dal consociativismo di CPC che poteva soffocare effettivamente la politica italiana, impostando il tema di un'alternativa, e in quel momento il Partito Comunista non seppe cogliere questa occasione. Poi ha avuto il torto di chiudersi in un consociativismo fortificato, ancora più ristretto, quello del CAF, e di lasciare sul terreno dei fatti che sono fatti, non sono diciamo anatemi politici. Il periodo del governo del CAF e del governo di Craxi è il periodo della maggiore bancarotta dello Stato italiano, il momento in cui in tutta Europa, compresa l'Italia, c'era uno sviluppo economico, e dall'altro lato ci ha lasciato sul terreno i germe veramente grave del conflitto tra poteri dello Stato, in modo particolare tra il potere politico e il potere giudiziario. E ora sentiamo un uomo che fu tra i più vicini a Craxi, Paolo Pillitteri, ex sindaco di Milano. Ma Bettino Craxi non soltanto fu scelto come capro espiatorio in quella vicenda cosiddetta mani pulite, in cui la giustizia apparve non soltanto a lui ma a molti, politicizzata, mirata, ma fu un capro espiatorio scelto perché era un capro politico, perché sapevano perfettamente che colpendo lui e soprattutto lui si affondava l'intero sistema. Craxi era diventato il perno in cui ruotava il sistema, nel bene e nel male. Questa però del capro espiatorio è una cosa che ha avuto su di lui un influsso, un'influenza notevolissima, tanto più che quando avvenne per esempio la vicenda terribile del Rafael con le monetine, ed io ero presente, io capii lì che cosa significava la parola linciaggio, l'odio, ma lui anche capì che cosa significava essere diventati il bersaglio prediletto, il capro espiatorio appunto. Ci spostiamo in Puglia adesso per una maxi operazione contro la pedofilia. cambiavano su Emul, uno software che consente la consultazione e la condivisione di file materiale pedopornografico. Il GIP del Tribunale di Bari, Yolanda Carrieri, su richiesta del PM Roberto Rossi, ha disposto un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone. 6 sono finite in carcere, 4 ai domiciliari. Foto e video con bimbi di 3-4 anni costretti a subire atti sessuali sono stati sequestrati dalla Polizia Postale di Bari, che ha condotto le indagini in Puglia, Campania, Lombardia e Marche. Gli indagati sono una settantina, tra loro professionisti, dipendenti pubblici e persino qualche donna. I bimbi ritratti sembrano orientali o provenienti da Russia e Ucraina. L'ipotesi di reato è commercio di materiale pedopornografico. Gli investigatori definiscono raccapricciante il contenuto dei file che venivano scambiati gratuitamente su Emule. Giovanni Longo, GR24, Il Sole 24 Ore, Bari. E adesso parliamo di uno spettacolo nato alla radio e che parla anche di radio. A teatro, la storia dell'assedio di Leningrado. 8 settembre 1941, 27 gennaio 1944. 900 giorni di assedio dell'armata tedesca alla città di Leningrado. 900 giorni in cui, nonostante freddo, fame, una situazione sanitaria tremenda, 1 milione di vittime, i tedeschi non riuscirono a conquistare la città. A raccontare quell'assedio è uno spettacolo molto legato alla radio. Ascolta, parla Leningrado, Leningrado suona. Nato prima come un radiodramma in Svizzera e ora a teatro. E anche la radio stessa è uno dei protagonisti, l'autore Sergio Ferrentino. La difesa di Leningrado è stata cementata da Radio Leningrado. La settima di Shostakovich è dedicata proprio a quell'assedio, a quei momenti. Il comitato radiofonico riuscì a organizzare la settima all'interno dell'assedio. Gli spartiti vennero paracadutati, i musicisti vennero richiamati dalle trincee. Il 9 agosto del 42 ci fu la settima di Shostakovich, amplificati in onde medie, ma soprattutto con proprio gli amplificatori per i 300 km delle trincee di Leningrado. Ascolta, parla a Leningrado e oggi e domani al Teatro Litta di Milano. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13, 15 minuti, 10 secondi nella prima parte abbiamo parlato dei redditi degli italiani e della riforma fiscale, abbiamo parlato anche delle prospettive di riforma della giustizia in vista di un vertice che si sta svolgendo in queste ore a Palazzo Grazioli, residenza romana del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Adesso ci spostiamo in Calabria. E andiamo naturalmente a Rosarno per gli aggiornamenti sulla rivolta di giovedì in diretta Cristina Carpinelli. Cristina. Sì, buongiorno. Una sessantina di immigrati trasferiti da Rosarno a Bari e in possesso di regolare permesso di soggiorno hanno lasciato questa mattina il centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bari, dove hanno trascorso la notte. Non ci sono stati ulteriori arrivi nella stessa struttura, dopo che da Rosarno ieri notte sono stati trasferiti gli ultimi 324 immigrati. Intanto le ruspe hanno demolito le baracche in cui vivevano tra Rosarno e le campagne attorno nella piana di Gioia Tauro gli immigrati che erano arrivati per lavorare alla raccolta di mandarini e arance. Una zona che, come abbiamo visto, ha messo in luce una profonda crisi che va avanti da anni, e in effetti, sentendo anche la gente del posto, quello che si capisce è che il problema di Rosarno era nell'aria già da anni. Comunque, una delle soluzioni, quindi questa della demolizione, sembra che possa essere applicata anche ad altri casi dove si è verificata forte tensione, cioè a Castel Volturno in Campania, dove ci sono circa 5.000 immigrati clandestini. Si pensa di intervenire con le ruspe anche a San Nicola di Varco, sempre in Campania, dove si parla di 800 clandestini, anche lì situazione molto tesa, e a Siracusa, dove le stime parlano di 600 immigrati clandestini. Resta il fatto che quella di Rosarno, come abbiamo detto, è una situazione, se possiamo usare questo termine, disperata. In qualche modo questo emerge anche da questa intervista che abbiamo fatto a Domenico Mondello, che è amministratore delegato del Consorzio Agricoltori di Rosarno. Il problema è un grosso problema, perché gli agrumi, con i prezzi che hanno, solo con questo tipo di manodopera si potevano raccogliere. Io, ecco, non pagando contributi, non pagando niente, quindi se, diciamo che l'unico modo per farlo era questo. C'era un ritorno, ma se devono, cioè, un agricoltore, un produttore deve assumere normalmente, pagare tutte le tasse di questo mondo, non credo che ce la faccia a fare la raccolta degli agrumi. E la gente del posto non si mette a tirar su gli agrumi? Costa 3 volte tanto. Come si immagina che vada a finire l'anno prossimo? Che torneranno queste extracomunitarie a raccogliere i mandarini? Cioè, se si intervenisse e si lavorasse legalmente, diciamo, arance e mandarini dalla Calabria non arriverebbero? No, con con i prezzi che ci sono state vendute a 30 centesimi i mandarini quest'anno. Ma come fanno gli spagnoli allora? Ma ancora gli spagnoli hanno manodopera bassa. Però legale? Ma non lo so se ce l'hanno legale, perché anche loro sono nelle nostre stesse condizioni. Secondo me anche loro usano questa manodopera dei caffè comunitari. Non è 10 centesimi di arance, non è possibile. Di queste extracomunitarie ce n'erano 200-300. Sì. Quest'anno sono arrivato 1000, non so per quale motivo. Quindi erano sempre in giro senza lavoro e quindi sono arrivata alla disperazione, questa gente qua non riusciva, perché io li vedevo passando la mattina, ne vedevo 500-600 fermi. Ecco, questa è un po' la situazione a Rosarno, nella piaia di Gioia Tauro. Simone, prima di ridarti la linea volevo segnalare che ha già superato i 20.000 iscritti il gruppo di Facebook dedicato al primo sciopero degli stranieri in Italia, che si propone di far incrociare le braccia 4 milioni e mezzo di immigrati che lavorano in Italia. L'iniziativa è stata lanciata da un comitato promotore a Roma il 9 ottobre scorso, quindi molto prima della rivolta di Rosarno, e si collega o comunque si ispira alla manifestazione organizzata in Francia che prevede uno sciopero degli immigrati per il 1 marzo 2010. Grazie Cristina, e anche dalla tua intervista abbiamo sentito un pochino qual è il problema strutturale su questo sta ragionando la politica. Il ministro dell'Interno Maroni riferirà domani in Senato sui disordini di Rosarno, ma in queste ore ha già chiarito quella che per lui è la strategia da seguire per evitare che fatti del genere si ripetano. Secondo Maroni è necessaria da un lato la tolleranza zero verso i clandestini con espulsioni e sgomberi, dall'altro però bisogna anche garantire condizioni di vita degne agli stranieri che sono in regola, combattendo il lavoro nero. Un punto questo su cui concorda anche il ministro del Welfare Sacconi, secondo il quale c'è una resistenza ottusa alle possibilità di regolarizzazione del lavoro che la legge offre. Ma a far discutere oggi la politica sono anche le critiche di Maroni alle amministrazioni locali calabresi, accusate di non aver fatto nulla negli ultimi anni per Rosarno. È lo Stato che ci ha abbandonato, e la replica del governatore della Calabria, Loiero. Per l'opposizione poi la tolleranza zero contro i clandestini, chiesta da Maroni, non è la soluzione per situazioni come quelle di Rosarno, che secondo il Partito Democratico sanciscono invece il fallimento della legge sull'immigrazione che porta il nome di Bossi e Fini. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a proposito di immigrazione, continua a far discutere la decisione del ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini di mettere un limite del 30% al numero di stranieri nelle classi. In questa percentuale non rientreranno tra l'altro i nati in Italia. Questo tema era dedicato il nostro sondaggio di oggi. I nostri ascoltatori promuovono il ministro all'istruzione Gelmini e la decisione di fissare al 30% la quota di alunni stranieri nelle classi. Si partirà gradualmente dal prossimo anno scolastico e il 72% di chi ha risposto al sondaggio oggi dice sì a questa scelta per favorire l'integrazione ed evitare classi ghetto. Ieri il ministro ha precisato che non rientrano nel 30% gli alunni stranieri nati in Italia, che per questo parlano la nostra lingua. Una precisazione che per il costituzionalista Michele Ainis dovrebbe servire a velocizzare la legge per garantire la cittadinanza italiana ai figli degli stranieri nati da noi. Una proposta questa, appoggiata da Fini, e che ha creato malumori nel PDL. Sentiamo Ainis. Forse in Italia le riforme possibili sono quelle che si fanno sottovoce, senza scomodare grandi dibattiti o addirittura la Costituzione, ma procedendo a piccoli passi. A me mi sembra un buon passo in avanti. Bianco Nero torna domattina alle 8.30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. È stato un discorso a 360 gradi, quello del Papa al corpo diplomatico in Vaticano, e ha parlato un po' di tutto a partire dalle violenze contro i cristiani. Suscita sdegno, aveva detto ieri all'Angelus Papa Benedetto XVI e lo ha ribadito oggi, la violenza contro i cristiani in varie parti del mondo, in particolare in Medio Oriente, in Iraq, Egitto, Pakistan e Malesia. La diversità religiosa non può mai giustificare la violenza e non può esserci violenza in nome di Dio, aveva detto, e lo ha sottolineato oggi il Papa nel tradizionale discorso di inizio d'anno al corpo diplomatico presso la Santa Sede. Benedetto XVI ha tracciato con preoccupazione la geografia delle persecuzioni ai danni dei cristiani e ha chiesto alla comunità internazionale rispetto, sicurezza e libertà. Soltanto in Malesia, lo ricordiamo, negli ultimi 4 giorni sono stati 9 gli attacchi contro luoghi di culto cristiani, tanto che lo stesso primo ministro malese Razak ha cercato di gettare acqua sul fuoco facendo appello alla calma. La controversia che ha scatenato la rabbia delle organizzazioni islamiche riguarda la decisione dell'Alta Corte della Malesia di autorizzare un giornale cattolico locale ad utilizzare la parola Allah nelle sue edizioni, decisione ora sospesa in attesa di un giudizio più approfondito della Corte d'Appello. appello. Adriana Fracchi, GR24, Il Sole 24 Ore. Non c'è solo la violenza oltre i confini dell'Europa. I cristiani sono in qualche modo vittime della persecuzione, anche se di altro tipo, anche in Occidente. La denuncia del Papa nel tradizionale discorso al corpo diplomatico, negli ambienti politici e culturali, ha denunciato Ratzinger, come pure nei mezzi di comunicazione, c'è un sentimento di scarsa considerazione, talvolta di ostilità, per non dire di disprezzo. Urge dunque definire una laicità positiva che riconosca il ruolo pubblico della comunità dei credenti. Dal Papa anche un passaggio sulla crisi economica non ancora superata e frutto dell'egoismo, lo stesso, secondo il pontefice, che è causa del degrado ambientale. Se si vuole edificare una vera pace, ha però sottolineato, non si può separare o addirittura contrapporre la salvaguardia dell'ambiente a quella della vita umana, compresa la vita prima della nascita. Così come, per Benedetto XVI, attacchi all'uomo e all'ambiente sono le leggi e i progetti che, in nome della lotta contro la discriminazione, colpiscono il fondamento biologico della differenza tra i sessi. Katia Caramelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Abbiamo sentito che il Papa ha parlato di crisi e di differenze di genere. Su questi due temi, ma su tutt'altro fronte, un'iniziativa oggi a Roma. Ci colleghiamo in diretta con Alessandra Schepisi, che ci spiega di che iniziativa si tratta. Alessandra. Sì, buongiorno. L'importante non è vincere ma pareggiare. Questa è la scommessa di Pari o Dispari, il comitato che da oggi si batterà per l'effettivo raggiungimento della parità uomo-donna nel mercato del lavoro. La presidente del comitato ed economista Fiorella Costoris spiega che l'idea nasce dall'evidenza che la questione delle donne tiene l'Italia sempre più lontana dal resto dell'Occidente. Abbiamo il tasso di occupazione femminile più basso dell'Europa 27, in Italia lavora meno di una donna su due, a parità di qualifica una donna è pagata un quinto in meno di un collega uomo. Obiettivo del comitato, ha detto la presidente onoraria Emma Bonino, sarà dunque quello di monitorare i comportamenti delle imprese, della pubblica amministrazione, segnalare le azioni eventualmente discriminatorie verso le lavoratrici. Un'altra azione sarà poi rivolta ai media, al loro modo di rappresentare l'immagine femminile. Ed ogni anno il comitato premierà simbolicamente le imprese più virtuose con un euro di cioccolata, mentre a quelle più discriminatorie andrà la carbonella. E da Roma è tutto. E grazie Alessandra Schepisi. Noi adesso ci spostiamo a Detroit, dove si sta per aprire il Salone dell'Auto, l'inviato del Sole 24 Ore. Il Salone dell'Auto di Detroit apre i battenti oggi con la prima delle giornate dedicate ai media. La temperatura qui in Michigan è rigida come al solito, meno 10 gradi ieri sera, ma il clima è ben diverso da quello del 2009. Un anno fa General Motors e Chrysler erano sull'orlo della bancarotta. Ora sono entrambe rinate dopo il fallimento pilotato del Chapter 11 e grazie ai fondi dell'amministrazione Obama. Oggi Sergio Marchionne fa il suo esordio al Salone come numero uno di Chrysler oltre che di Fiat. La Ford, intanto, unica delle Big Three a non chiedere soldi allo Stato, ha guadagnato nel 2009 quota di mercato negli Stati Uniti. Non accadeva da anni. Le previsioni per l'anno appena iniziato sono cautamente ottimistiche. Bob Lutz, numero 2 della GM, prevede che negli USA si venderanno nel 2010 fra gli 11 e i 12 milioni di auto contro i 10,3 del 2009. Anche se è presto per suonare il cessato allarme, tra gli stand si tornerà dunque a parlare più di modelli che di bilanci. Grande protagonista l'auto elettrica, che si merita per la prima volta un settore di esposizione a parte, ma che lascia ancora scettici molti osservatori da questa parte dell'Atlantico. C'è chi vede fra 10 anni i veicoli elettrici al 10% del mercato, come Carlos Ghosn della Renault, e chi ricorda che gli ibridi ci hanno messo di più per conquistare poco meno del 3% delle vendite. Dalla fine del 2010, con l'esordio dei primi modelli, il giudizio spetterà ai clienti. Andrea Malan, GR24, Il Sole 24 Ore, Detroit. Ed è una notizia che arriva adesso dal mondo dell'auto. È morto a Roma Francesco Paolo Mattioli, ex vicepresidente del gruppo Fiat. È entrato nel 1975 appunto come vicepresidente esecutivo e direttore finanziario durante la gestione Romiti. Noi chiudiamo parlando di calcio, parlando del crollo della Juventus col Milan, che mette sempre più a nudo il fallimento di un progetto nel quale la stessa società bianconera non sembra aver creduto fino in fondo. L'allenatore Ciro Ferrara è sempre solo, intanto litiga con un altro allenatore, Gigi Maifredi, che proprio sulla panchina juventina ebbe molti problemi. Ma quando c'è stupidità in giro, soprattutto da, insomma, da parte di colleghi, veramente mi cadono. Per dovere di cronaca, ricordiamo che la dichiarazione che sta inquietando Ciro Ferrara, collegato con noi, di Gigi Maifredi era: con me questa Juventus vincerebbe lo scudetto, potrebbe vincere. A parte che la stupidità sta in chi non è tutto si sincera. Zitto, stai zitto del meglio, stai zitto del meglio. Che ti vai a impugnare, stai zitto Maifredi. Fenomeno. Ecco. Siamo alle liti da cortile. Ciro Ferrara, da mesi sulla graticola juventina, non ce la fa più a mandare giù Rospi e spara su chi può, quel Gigi Maifredi che in un altro tempo, in un'altra storia, al 90-91, arrivò alla Juventus come profeta del calcio champagne. Dopo una stagione con ben pochi brindisi, fu messo alla porta per riportare la tradizione, anzi la restaurazione, di Giovanni Trapattoni. Altre vicende, certo, che vengono però in mente osservando l'agonia di quello che doveva essere un nuovo progetto, finito poi in carta straccia. Ferrara ha molte responsabilità, però se si punta su un esordiente ci vuole il coraggio di difenderlo fino in fondo, come ha fatto il Milan con Leonardo, che gli ha dato il tempo di sbagliare e il tempo di risalire. La Juventus no, la difesa di Ferrara è una difesa solo d'ufficio e si sente, lo sentono i giocatori, il pubblico e lo stesso allenatore. Così, siccome poi nel calcio qualcosa alla fine bisogna pur fare, alla fine pagherà lui, l'allenatore, sottufficiale mandato allo sbaraglio in un calcio dove comandano ultra senza cuore e dirigenti senza cervello. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Daniele Biacchessi e con in regia Carmelo Lauricella. Prossimo giornale radio alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.